Letture di Radio 24. Adesso è ufficiale. Sui treni dei pendolari è lecito viaggiare a strati. Trenitalia ha fissato i parametri che stabiliscono quando un treno può essere definito sovraffollato. Ma, come commenta il comitato dei pendolari, sono numeri da Guinness dei primati. Pendolari di tutto il mondo, udite! Per la prima volta Trenitalia ha messo nero su bianco i numeri che stabiliscono quando un treno è affollato o sovraffollato. Cifre che sono diventate ufficiali il 15 aprile, quando le nuove tabelle sono state distribuite al personale ferroviario. In caso di eccessivo affollamento, i controlli dovranno avvertire la centrale operativa, che a sua volta dovrà intervenire per mitigare i disagi in caso di affollamento. Come? Predisponendo, se è il caso, solo a certe condizioni, anche operazioni di trasbordo. Ma secondo le associazioni di pendolari, le soglie fissate sono troppo alte, tanto che il Comitato Pendolari Roma-Firenze li definisce numeri da Guinness dei primati. Ecco qualche esempio preso dalle nuove tabelle. Carrozza Z1 di seconda classe, per intenderci gli intercity a scompartimenti. I posti a sedere sono in media 66. Trenitalia definisce il treno affollato se i passeggeri sono 126, dunque se ce ne sono 60 in piedi. E sovraffollato se ce ne sono 157, cioè 91 in piedi. Carrozza MDVE, usata spesso sui regionali e sugli interregionali, 84 i posti in seconda classe. Per Trenitalia è affollato se i passeggeri sono 133, cioè 49 in piedi, e sovraffollato se sono 166, cioè 82 in più. E ancora, carrozza UIC-X, utilizzata per espressi e intercity, posti a sedere 72 in seconda classe, affollato quando si è in 128 e sovraffollato quando si è in 160. Sono numeri al lotto con i quali Trenitalia si mette in sicurezza. Io sono una pendolare, quando ci sono 30 persone in piedi la condizione è già difficile, assicura Rosalba Rizzuto del Comitato Italiano Utenti Ferrovie Regionali. Per l'azienda, però, i calcoli sono esatti. Seguendo i criteri stabiliti dalla normativa, spiegano, sono stati considerati i metri quadrati a disposizione, al netto delle aree dove i passeggeri non devono sostare, utilizzando il parametro massimo di 4 viaggiatori per metri quadri. Insomma, scienza matematica applicata ai binari. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Cinzia Gubbini, Treni sovraffollati? Una questione aritmetica. Dal venerdì di Repubblica del 6 giugno. Letture di Radio 24. A Napoli ci sono 2012 vigili urbani, ma in strada se ne trovano solo 400. E gli altri? Assenti per permesso sindacale, magari in concomitanza con qualche festività, oppure esentati per motivi di salute, o perché devono accudire qualche parente malato. E il settimo giorno si riposò, ma anche il sesto, e pure i festivi. A Napoli, capitale mondiale del traffico stradale più creativo e caotico, solo un vigile urbano su 5 è impegnato in strada. Su oltre 2.000 titolari in totale, con uno stipendio in media di 38.000 euro lordi all'anno, quelli veramente attivi sono meno di 400. Le colpe di questo scandalo sono tante. È colpa, per esempio, di un esercito di sindacalisti, di troppi inidonei al servizio e di una marea di imboscati che obbligano il colonnello Ciro Esposito, comandante del corpo, a giocare a risico con gli ordini di servizio. Nel giorno di Pasquetta, per dirne una, soltanto in 178 hanno risposto presente. Tutto secondo le regole, si difendono gli interessati. Sarà. Intanto il comando di polizia municipale sta lavorando a un esplosivo dossier sui permessi facili e i primi atti, dopo la notifica ai sindacati, sono stati trasmessi alla procura. A Napoli funziona così. I vigili non vigilano e nessuno vigila su di loro. Qualche esempio? Partiamo dai sindacalisti a tempo quasi pieno. Nel 2012 un agente che è anche dirigente della CISL non ha mai lavorato nei weekend e nel 2013 si è concesso solo 3 sabati di servizio. Un suo collega di un'altra sigla, la DCAP, per 2 anni ha terminato la settimana lavorativa il mercoledì, assente dal giovedì al sabato. Un vigile sindacalista della UIL ha scelto invece i festivi infrasettimanali per appendere la divisa al chiodo. Il record però spetta un vigile sindacalista della CGIL, che in 4 mesi ha lavorato appena 16 giorni, mettendo assieme permessi per l'accudimento di persone disabili, legge 104, licenze ordinarie e distacchi per direttivi sindacali, anche il 23, 24, 30 e 31 dicembre 2013. Ovvio, malgrado lo stacanovismo rovesciato, costui percepisce lo stipendio pieno, 1.300 euro per una media di 24 ore lavorate a settimana. Come lui, ce n'è almeno un'altra dozzina che giura di aver partecipato a incontri sui diritti dei lavoratori a Ferragosto, a Pasqua, Natale o all'alba di qualche domenica. Ottenere un permesso sindacale pagato non è difficile. Basta la dichiarazione del segretario confederale o del responsabile della sigla. Il comune può solo prendere atto dell'assenza e registrarla, ovviamente retribuendola. Un altro elemento che falcidia le presenze in strada è l'esercito di presunti inidonei al servizio. Sorprenderà forse scoprire che a Napoli addirittura un vigile su 4 ha problemi di salute, regolarmente certificati dal policlinico. Ma non è finita qui, perché altri 1.050 vigili godono di particolari benefici che periodicamente li allontanano dal servizio, come il diritto all'assistenza di figli da 0 a 8 anni o la legge 104 sull'accompagnamento di parenti disabili. Ne usufruiscono 9 a titolo personale, 233 in conto terzi, con una particolarità tutta partenopea. Chi è beneficiario di un'agevolazione, per esempio quella prevista dalla legge 104, non dovrebbe sommare altri permessi, cosa che invece a Napoli avviene puntualmente. In definitiva, per prestare regolarmente servizio sulle strade napoletane sono potenzialmente disponibili soltanto circa 400 vigili urbani, dai quali bisogna però eliminare la quota che il comando destina a servizi di polizia giudiziaria e piantonamento, più i 6 che il sindaco Luigi De Magistris ha chiamato a fargli da scorta in pianta stabile. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Simone De Meo e Maria Pirro, Lo scandalo napoletano dei vigili che non vigilano, da Panorama dell'11 giugno. Parallelamente ai suoi romanzi ambientati a Bellano, da qualche anno Andrea Vitali pubblica anche una serie di racconti illustrati dal suo concittadino Giancarlo Vitali, che rappresentano per lui l'occasione per uscire dagli schemi narrativi ormai consolidati e sperimentare nuove forme espressive. Nell'ultimo di questi, intitolato Vivida Mon Amour, Vitali per la prima volta racconta un episodio della sua vita, l'incontro con una ragazza avvenuto molti anni prima durante una festa di laurea. Al momento di tornare a casa, lei, che aveva bevuto molto più di lui, gli chiede un passaggio. «Dove abiti?» chiesi. Me lo disse. A quel punto, seppur goffamente, mi presentai tendendo la mano, gesto che avevo appreso a praticare durante il liceo e che esternavo anche con le donne. Per tutta risposta lei girò le spalle, bofonchiando il suo nome, un ritorno di fiamma del vino ingerito, e si diresse verso una Volvo come se non esistesse altra auto al mondo. Con imbarazzo ne corressi la traiettoria verso una più banale Peugeot, scarburata, e partimmo in direzione delle rispettive magioni. La sua abitava in un paese sul quale stagnava un olezzo di stallatico che evocava georgiche letture. Imbarazzandomi per lei, che dentro l'impalpabile afrore viveva da mane a sera, cercai di nobilitare il lavoro dei campi con un discorso ad alate immagini di improbabili fatiche, di corrusche disgrazie sempre pronte a rigettare nella miseria l'homo agricolus. Lei mi rispose che quella di cui celebravo il profumo era solo merda, e che per quanto mi sforzassi di nobilitarla, sempre merda restava. Risi, e la fine grama del mio volo pindarico svanì, non lasciandomi altra possibilità di riscattare la vis poetica, perché nel frattempo eravamo finiti davanti a casa sua. Scese, malamente sbandando. Poi, prima di chiudere la porta con un'energia degna di un camionista, disse: «Fatti vedere». Sbalordito, restai muto, e la guardai allontanarsi con passo da cerebellare. Quindi partì ingranando la terza marcia e imballando ancora di più la Peugeot. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Andrea Vitali e Giancarlo Vitali, Vivida Mon Amour. 5 sensi editore, 112 pagine, 18 euro. Oggi è possibile parlare di qualunque cosa senza sapere niente. Non è necessario informarsi prima. Lo si può fare mentre si sta parlando. Perché, come ironizza il New York Times, dovendo controllare tutto il tempo quello che accade, non abbiamo il tempo di sapere che cosa succede. Non è mai stato così facile fingere di sapere tante cose senza in realtà sapere nulla. Parlare di un libro senza averlo mai cominciato, senza aver sfiorato nemmeno una recensione, ma con una solida opinione data da un paio di tweet brillanti trovati mentre si cercava qualcosa di serio ma disinvolto da dire sulle ultime due puntate di Gomorra, senza avere visto neanche le prime. Basta un telefono, una timeline strutturata, qualche sito internet bravo nei titoli e nei riassunti, e il nostro canone culturale è pronto, scrive il New York Times. Nel mondo succedono cose, escono libri, si va a votare, si vincono gli Oscar, si va alla guerra. E noi possiamo fingere di sapere tutto, di aver visto tutto, solo facendo scorrere il dito sullo schermo, dando un'occhiata a una foto su Instagram, leggendo le prime 7 parole di un articolo postato su Facebook. Che ne dite di questa stagione di Trono di Spade? Scrive Carl Greenfeld sul New York Times, e del rapporto non consensuale nella cripta. Non guardo la serie, ma ho scorso il riassunto su Vulture e sono pronto a sostenere che fosse profondamente offensivo. E Papa Francesco è un papa postmoderno? Non ho mai ascoltato una delle sue omelie, né ho visto il suo intervento a 60 Minutes, ma ho visto che twitta molto e sono in grado di discutere delle sue posizioni sulla giustizia sociale. Ci sentiamo preparati, immersi nelle notizie. Non solo sappiamo di che cosa si sta parlando senza saperlo, ma abbiamo un'opinione precisa anche su ciò che ignoriamo totalmente. Come quando cantavamo le canzoni in inglese, infilandoci dentro parole a caso, muovendo solo la bocca e mimando molte vocali. E ci saremmo fatti uccidere piuttosto di ammettere di non conoscere affatto quella canzone. Così adesso nessuno direbbe mai: non ne so nulla, non l'ho letto, non l'ho mai sentito nominare, non ne ho idea. Basta una parola chiave, una digitazione furtiva su Google anche durante la conversazione, molti fingono di controllare le email e soffrono quando la connessione è lenta, ed ecco che si apre il mondo della conoscenza e la nostra cena è salva. Siamo in grado di parlare per tutta la sera di Grand Budapest Hotel, senza aver visto nemmeno il trailer. E poiché ne stiamo parlando con qualcuno che come noi non l'ha visto e non lo vedrà mai, nessuno si accorgerà che stiamo dicendo una montagna di idiozie. Al massimo, se proprio ci sentiamo totalmente insicuri, senza punti di riferimento, senza una connessione, senza nemmeno il ricordo di un terzo di titolo fotografato in un tweet, faremo un cenno del capo per dire: «Certo, ne ho molto sentito parlare», e sbatteremo le palpebre con maggiore intensità, distendendoci in un sorriso definitivo che significa: su questo argomento è già stato detto tutto, passiamo oltre. Dobbiamo difenderci, scrive il New York Times, dal flusso di informazioni, senza annegarci dentro, senza ammettere che dovendo controllare tutto il tempo quello che succede, non abbiamo tempo di sapere che cosa succede. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Annalena Benini, Non so niente, dal Foglio del 27 maggio. Il costo medio di una spedizione sull'Everest va dai 20.000 ai 60.000 dollari a testa, ai quali vanno aggiunti 4.000 dollari di cauzione, un deposito che rappresenta un impegno per liberare la vetta dalle enormi quantità di spazzatura lasciate dagli scalatori. Una spedizione italiana calcolò che il 30% dei rifiuti lasciati sull'Everest è composto da imballaggi, plastica, cartoni, sacchetti, altrettanto da rifiuti organici, 20% di lattine, scatole metalliche, barattoli, 10% di vetro e altrettanto materiale vario come batterie e medicinali. Tra l'immondizia trovarono anche bottiglie di champagne, confezioni di patè, vino, carte da gioco, un pappagallo, una sveglia anni 70. Siccome tutti quelli che sono saliti sull'Everest hanno lasciato lassù mucchi di spazzatura, il Nepal ha stabilito che chi vuole salire in cima deve riportare giù almeno 8 kg di immondizia raccolta qua e là, non solo la propria, ma anche quella di altri appassionati d'alta quota. La raccolta funziona così: prima di partire si pagano 4.000 dollari di cauzione, alla discesa si va in un ufficio a far pesare i rifiuti. Se sono stati raggiunti gli 8 kg, si ottengono indietro i soldi, altrimenti niente. L'obbligo riguarda i rifiuti organici e inorganici, ma non le bombole di ossigeno e gli escrementi umani. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'articolo di Giorgio Dell'Arti, Everest, dal Magazine 7 del 6 giugno.